primo nonché terzo, visto la replica, appuntamento della settimana con Arden David. Il benvenuto dalla voce di Marco Gravelli, ben ritrovati insieme anche per questa sera. Il saluto va come sempre al nostro sponsor, Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 a Milano, il cui sito internet è www.mariposadischi.it. Saluto al nostro autore Simone ed entriamo subito in contatto con il sound del passato. Passato che ci porta agli Whitesnake, grande band che grande successo ha avuto nella prima parte degli anni 80, sia in America che in Europa. Gruppo nato in principio come il progetto del cantante inglese David Coverdale, subito dopo essere fuoriuscito dai Deep Purple, nella quale band rimase dal 73 al 76. L'esordio omonimo arriva nel 77, mentre l'ultimo album in studio fu Restless Heart del 1989. Nel 90 Coverdale decise di mettere da parte gli Whitesnake per dedicarsi ad altri progetti. Nel 96 c'è da segnalare il ritorno del gruppo, anche se con un album acustico. In tema di uscite, negli ultimi due anni dal vivo sono arrivati diversi prodotti, da prima un DVD dal titolo Live in the Still of the Night, uscito alla fine del 2005, ed il secondo uscito alla fine del 2006 con il titolo di Live in the Shadow of the Blues, con anche quattro nuove tracce in studio. Sembra che la band stia lavorando ad un lavoro, appunto ad un album completamente nuovo, canzoni nuove, speriamo che nel 2008 possa essere pubblicato. Intanto noi dall'album Snakebite andiamo a proporre, per aprire il nostro spazio di questa sera, Arden David, il motivo dal titolo Come On, Whitesnake. The song. intitola Come On, questo brano che apre l'album Snakebite, suddiviso in logicamente due facciate, essendo un vinile. Facciata A prodotta dal famoso Martin Birch, facciata B prodotta da Roger Glover. Nella line-up di questo, definiamolo, primo album degli Whitesnake vi erano i due fidi chitarristi Bernie Marz e Mickey Moody, al basso Neil Murray, alla batteria Dave Dole, che poi verrà sostituito nei successivi lavori. Abbiamo iniziato quindi con una grande band, andiamo ad un prossimo gruppo che è un grande gruppo ma di culto, perché tutti gli album pubblicati non hanno mai avuto un grande successo, anche se sono molto ambiti, molto ricercati, soprattutto il primo che vado a proporvi tra breve. Si chiamavano, visto che la band non esiste più, Sirith Angle, una band di epic heavy metal americani. Attivi tra il 72 e il 92, hanno pubblicato 4 album, ripeto, ottima qualità dei prodotti, ma scarso successo a livello commerciale. Band nasce addirittura 69 col nome di Titanic, poi hanno cambiato sia le coordinate musicali a favore di un metal a metà tra l'epic e il doom, decidono di cambiare anche il nome in Sirith Angle, che prende spunto da un luogo menzionato nel libro del Signore degli Anelli. Nel 77 entra in lineup il cantante Tim Baker e quindi a formazione ultimata creano la loro etichetta Liquid Flames, tramite la quale pubblicano il primo album d'esordio, Frost and Fire. Siamo nel 1980. L'anno seguente viene ristampato dall'etichetta Enigma. Segue poi l'abbandono del secondo chitarrista e qui in poi il gruppo proseguirà come quartetto. Partecipano anche alla compilation Metal Massacre volume 1, dove comparivano anche i Metallica, senza però aver successo. Nonostante ciò, pubblicano il secondo album, King of the Dead, che gli vale un contratto con la Metal Blade, che pubblica anche il terzo, One Foot in Hell, nel 1986. La notorietà è comunque sempre lontana e questo malumore porta alla sostituzione del chitarrista e del bassista. Occorrono 5 anni per un nuovo album, Paradise Lost, che non ottiene il successo sperato, quindi nel 92 la band si scioglie. Andiamo al loro primo album, ristampato poi in CD, un vero classico, si intitola Frost and Fire. Anche il brano che vi propongo si intitola Frost and Fire, sono i Sirith Angle. Feel the breeze, the frost, the fire. Frost and Fire, titolo del brano, titolo dell'album, il primo 1980 per la formazione dei Siritangle che abbiamo ritrovato come secondo brano questa sera del nostro spazio di Hard and Heavy. Ritorniamo alle cose più recenti, uscito a metà di quest'anno tramite Roadrunner Records, l'album dei Delane, è l'album di debutto per questa project band olandese creata nel 2002 dal tastierista Martin Westerholt dopo aver lasciato i Within Temptation, nei quali ha militato dal 96 al 2001. L'album ha ottenuto un buon successo tanto da raggiungere la 45esima posizione in Germania, dove ha vinto l'Essent Award, oltre ad aver ottenuto una candidatura all'MTV European Award nella categoria Miglior Nuovo Gruppo. Musicalmente si tratta di un buon gothic metal sinfonico dal cantato femminile. La formazione ha sei elementi, come cantante principale troviamo Charlotte Wessel, molti sono invece gli special guest, tra cui la cantante norvegese Liv Christine, la cantante olandese Sharon Den Herald dei Within Temptation, il bassista cantante finlandese Marco Jetala dei Nightwish e Tarot, il batterista dei God Throned e il secondo chitarrista degli Epica. Li andiamo ad ascoltare con Server, il brano che apriva l'album, brano nel quale è presente come special guest Marco Jetala. Sentito la Server, il pezzo d'apertura dall'album Lucidity per i Delane, CD d'esordio per questa formazione gothic metal olandese che abbandoniamo per andare indietro nel tempo. Andiamo al secondo album dei Kansas, band americana molto famosa nel panorama OR prog rock oppure pomp rock. Nati agli inizi degli anni 70, arrivano all'esordio nel 74 con l'omonimo album, seguito appunto da questo Song for America, che arrivò al numero 57 nelle classifiche americane. La notorietà comincia ad arrivare comunque col terzo album Mask del 75 e con il quarto lavoro Leftover Tour, che arrivò addirittura al numero 5 nelle charts. Ricevette il disco di platino, più di 1 milione di copie vendute. Successo bissato dal seguente Point of No Return, che arrivò al numero 4, dove era incluso il bellissimo singolo Dust in the Wind. Il successo li porta a registrare il loro primo album dal vivo, Two for the Show, anch'esso disco di platino, album che vi abbiamo presentato in Arden Devi Live del venerdì. Dopo la pubblicazione di Audio Vision, c'è da segnalare che il cantante e tastierista Walsh lascia la band, al suo posto entra comunque il bravo John Elefante. Nell'86 Walsh ritorna nei Kansas in occasione della pubblicazione dell'album Power. Il successivo lavoro in The Spirit of the Things delude un po' le aspettative e quindi il gruppo si ferma per un lungo periodo di pausa che terminò nel 95 con il ritorno sul mercato dell'album Freaks of Nature. L'ultimo lavoro in studio è datato 2000, si intitola Somewhere to Elsewhere, mentre nel 2004 hanno celebrato i 30 anni di attività con la pubblicazione di un bellissimo e ricco box set dal titolo Sail On. Come già detto, andiamo a prendere in considerazione il loro album Song for America, dal quale vado a proporvi The Devil Game. Sono i Kansas. delle loro particolarità, l'utilizzo del violino, The Devil Game, dall'album Song for America. Per la formazione dei Kansas era il loro secondo album. Andiamo in Svizzera, esattamente a Zurigo, con un gruppo culto, gruppo che si è riformato anche di recente, Celtic Frost, band svizzera ancora in attività, considerata come punto di riferimento per molti gruppi estremi attuali. Il primo nucleo comincia a prendere forma nel 1982, quando il cantante e chitarrista Thomas Gabriel Fischer, che in seguito si farà chiamare Warrior, crea praticamente gli Hammerhead. In seguito, con l'importante ingresso del bassista Martin Eric Kane, cambiano il nome in El Hammer. Nel 1984 la band cambia di nuovo il nome in quello definitivo Celtic Frost, e grazie ad un demo ottengono un contratto con la Noise Records, che ne pubblica il loro lavoro d'esordio, un EP praticamente. Ci sono due brani sulla side A, quattro sulla side B, considerato comunque una pietra miliare del genere. L'anno seguente esce To Megatherion, che gli vale un tour insieme a Halloween Gravedigger. Importante per il gruppo è il 1988, quando vengono allontanati il bassista e il secondo chitarrista e viene pubblicato Cold Lake, dalle nuove coordinate musicali, che ne fa purtroppo perdere credibilità. Ritorna il bassista Martin Hain nel 1990 e pubblicano Vanity Nemesis, al quale segue un lungo scioglimento. Soltanto nel 2005 si ha la riconferma della storica reunion, che vede nuovamente Thomas Fischer alla voce chitarra, Marty Carey Hain al basso, mentre alla batteria è stato reclutato Franco Sesa, batterista emergente dell'underground svizzero. Con questa formazione è uscito lo scorso anno, tramite Century Media, il loro sesto lavoro, Monotaste. In tema di uscite, nel febbraio del 2008 verrà pubblicato ufficialmente il demo El Hammer, la cui versione in cassetta risale al 1983. Ebbene, da Morbid Tales, il loro primo lavoro su EP, cioè un EP, per dire, ripeto, due canzoni sulla facciata A, quattro brani sulla facciata B. Dalla facciata B andiamo a proporre Procreation of the Wicked. La formazione è quella appunto dei Celtic Frost. Seconda parte del nostro spazio serale, il primo, quello del lunedì, replicato poi il mercoledì su Rock FM, di Arden Devi con la voce di Marco Gravelli con voi. Abbiamo appena ascoltato il sound di Gary Hughes. Chi è Gary Hughes? Beh, è il grande cantante, grande compositore inglese, già noto per la sua band Ten, ora con questo album nuovo solista che uscirà questa settimana per l'etichetta italiana di Napoli, Frontiers Record. La sua carriera comincia nell'89 proprio con un album solista dal titolo Big Bad Wolf, che l'anno successivo fu ristampato con un altro titolo, Strength of Heart. Segue poi l'omonimo album nel 92, mentre nel 96 forma i Ten. Tornando alla sua carriera solista, la sua ultima uscita era avvenuta nel 1998, mentre nel 2003 Era stato pubblicato un'opera rock suddivisa in due parti, il concert Once and Future King Part 1 and Part 2, che vedeva la presenza di numerosi special guest. A 4 anni di distanza, appunto, uscirà questa settimana questo Veritas, dal quale oggi vi abbiamo proposto Time to Pray, Gary Hughes. Da Gary Hughes ai Gamma Ray, nono album in studio, ampiamente presentato in un'intervista la scorsa settimana direttamente dal cantante chitarrista Kay Hansen, che è il fondatore della band, naturalmente dopo aver abbandonato gli Helloween. La line-up è stabile dal 97 con il fedele Dirk al basso, Ennio Richter alla chitarra e Dan Zimmerman alla batteria. L'album presenta 12 tracce, delle quali una è un interludio. I Gamma Ray suoneranno la prossima settimana, cioè il 27 e il 28 novembre, rispettivamente a Roma e a Milano. E come tastierista per il tour è stato scelto l'italiano Alessio Gori dei Flashback of Anger. Il pezzo che andiamo ad ascoltare da questo nuovo album, Land of the Free Part 2, si intitola To Mother Earth. Sono i Gamma Ray. To stop the man. fiatone power metal per i Gamma Ray, questa Tomorrow Earth, dalla loro nuovo Land of the Free Part 2, che abbandoniamo per parlare dei Down, gruppo terzo album per loro, gruppo nelle cui fila milita l'ex cantante dei Pantera Phil Anselmo, vi è anche il bassista Rex Brown già con i Pantera, chitarrista e batterista dei Crowbar e anche il chitarrista Pepper Keenan dei Corrosion of Conformity. Nati nel 91 come progetto e per divertimento, hanno registrato così un demo in cassetta che ha suscitato l'interesse delle etichette discografiche e ottengono un contratto con la Elektra Records, che debutta nel 1995 con l'album Nola. Il secondo arriva nel 2002, si intitolava Down to a Bustle in Your Head Garrow e arrivò al numero 44 in America. Dopo 5 anni è uscito questa volta per Roadrunner Records questo terzo album dal titolo Down 3 Over the Under. Ci sono 12 brani disponibili anche in Digipack ed è già arrivato al numero 26 nelle charts americane. Da quest'album andiamo ad ascoltare il brano che apre il lavoro, Three Suns and Over Star Down. We'll be right back. traccia d'apertura del nuovo terzo album dei Down era Three Suns and One Star. Metal News di questa sera partono parlando della formazione dei Moonspell. Gothic metal band portoghese sta lavorando ad un nuovo album in studio con il consueto produttore Valdemar Soritta. Attualmente sono in fase di preproduzione, hanno reso noto che si avvarranno anche del produttore Tui Madsen. L'uscita dell'album è prevista tra primavera ed estate del prossimo anno. Pronto anche il secondo album della heavy metal band americana dei Benedictum. Il titolo sarà Seasons of Treasury, uscita prevista per il 14 gennaio, etichetta Locomotive Records, distribuzione Frontiers, numerosi special guest. Si va da George Lynch, ex Dokken, Manny Schmidt, The Grave Digger, Craig Goldie, di Ronnie James Dio, Jeff Pilson, ex Dokken. Le tracce saranno 11, più la cover di Balls to the Wall degli Accept, e sarà disponibile anche una versione limitata con un'altra cover con la bellissima Catch the Rainbow dei Rainbow. Parliamo dei Blind Guardian, che hanno preso parte alla realizzazione del tema principale del film The Name of the King Dungeon Siggy, che uscirà il prossimo album. È un film fantasy. Meshuggah, la band svedese, ha reso noto il titolo del prossimo album in studio, sarà Obscene. La data di pubblicazione è prevista per marzo del 2008. Testament, la thrash metal band americana, ha comunicato il titolo del prossimo album, The Formation of Damnation. Pubblicazione prevista per l'inizio del 2008 su etichetta Nuclear Blast. Attualmente la band sta registrando le parti di batteria col celebre produttore Andy Snape. I Vicious Rumor invece hanno dichiarato la fuoriuscita ufficiale dalla band del cantante James Rivera a causa di forti divergenze artistiche che li hanno portati anche a litigare energicamente. Molto probabilmente nei litigi sono dovuti questi litigi alla reunion degli Hellstar, che è la band principale del cantante Rivera. Ad ogni modo, i Vicious Rumors hanno assicurato i fans che continueranno ad esistere con una nuova lineup e con un nuovo album che è atteso per il prossimo album, per il prossimo anno, scusate. Parliamo dei Saint Demon, questo è il nome di una nuova band di melodic metal che proviene dalla Svezia, creata dall'ex batterista dei Dionysus. Nella lineup ci sono anche il bassista dei Dionysus e il cantante norvegese Jan Thore Gressfad degli Highland Glory. La band ha recentemente stipulato un contratto con la Frontiers Record, che pubblicherà il loro album di debutto, dal titolo In the Shadow, Lost from the Brave, il 25 gennaio del 2008. Megadeth, la band americana di Dave Mustaine, tornerà in Italia il prossimo anno per due date: 4 marzo Alcatraz di Milano, 5 marzo Palasport di Pordenone. E parliamo di Peter Tagtren. Il 37enne leader degli svedesi Hypocrisy e Pain ha vinto insieme allo scrittore svedese Nils Carlson il premio della cultura assegnato in quelle di Ludvika. Il premio gli verrà consegnato il 23 novembre durante la cerimonia ufficiale. Peter ha comunicato che i soldi che riceverà da questo li devolverà ad una scuola elementare per l'acquisto di strumenti musicali. L'ultima uscita discografica di Peter è stata a nome dei Pain con l'album Falms of Extinction, ed è stato registrato, suonato e prodotto dallo stesso Peter, con ben 3 special guest quali Mickey D dei Motorhead, il chitarrista Alexi Lilo dei Children of Bodom e il bassista degli In Flames Peter Hewers. Inoltre i Pain sono stati scelti come gruppo supporto per le due date europee dei Nightwish. Bene, allora possiamo parlare, abbiamo parlato di lui, lo possiamo ascoltare con questo brano estratto appunto dall'album più recente. Il motivo si intitola Zombie Slam. Yeah. Si intitola Zombie Slam, estratto dall'ultimo lavoro dei Pain. Questo brano, andiamo a chiudere il nostro appuntamento di questa sera con un lavoro d'esordio per un gruppo inglese, ecco, thrash metal band inglese, che si ispira però al thrash metal anni 80 americano, quello noto dei Metallica, anche perché il produttore Flemming Rasmussen, che aveva già lavorato e prodotto Ride the Lightning e Master of Puppets, quindi un album consigliato a coloro che amano quelle sonorità. Il gruppo, abbiamo detto, arriva dall'Inghilterra, sono in quattro, nati nel 2004 grazie ai due fratelli Drake, uno chitarrista solista, l'altro cantante chitarrista. A line up ultimata, registrano due demo che gli valgono diverse partecipazioni a Festival del 2006. Ottengono un contratto quindi con la Iraq Records, che ne ha pubblicato questo album d'esordio Enter the Grave, che si compone di 10 tracce di classico thrash metal anni 80. Ed è con l'estratto, la traccia numero 3, First Blood, dal loro album d'esordio che andiamo a chiudere il primo appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Un ringraziamento al nostro autore Simone, a voi che avete seguito la prima puntata della settimana. Ci ritroveremo anche col nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi, al numero 1 qua a Milano, domani sera dalle 20 alle 21 con Hard and Heavy su Rock FM insieme a Marco Gravelli. Grazie, ciao ciao! Survive war. You must become.